andiamo a parlare di tortura. Nella tortura, senza voler essere assolutamente esaurienti ed esaustivi rispetto a questo argomento che avrebbe insomma bisogno di essere trattato a sé, vogliamo mettere in luce come all'interno delle pratiche di tortura nei confronti delle prigioniere politiche l'uso della violenza sessuale sia particolarmente forte. Come contributo della, appunto, della trasmissione Radio Borroca, di cui stiamo occupando lo spazio e di cui io appunto faccio le veci, abbiamo deciso di portare la storia di una prigioniera politica basca che ha denunciato le torture subite come prassi nei processi di arresto nei confronti dei presunti collaboratori con ETA. Vi raccontiamo dunque la storia di Amaia, arrestata nel 2004 con l'accusa di appunto di far parte di ETA, trasferita come di prassi da Euskal Herria a Madrid ed è stata sottoposta a quelli che sono i canonici, in questo caso 5 giorni di isolamento previsti dal sistema spagnolo. Nel giro di una decina di minuti, da quando mi avevano messo nella cella, hanno bussato 2 volte ed io ho fatto ciò che mi avevano ordinato. Mi sono messa con le spalle alla porta, contro il muro. Per la paura mi tremava tutto il corpo. Appena aperta la porta ho sentito la voce del guardia civile che era stato in macchina fino a Madrid, che diceva ad un altro, che chiamava Garmendia, di fare quel che doveva fare. Mi è saltato addosso, mi ha buttato sulla branda e mi ha afferrato molto forte per le braccia. Ho cominciato a gridare di lasciarmi, loro mi urlavano taci puttana. Allora li ho visti, erano incappucciati e quello che era stato nella macchina aveva i pantaloni e le mutande abbassati e veniva verso di me dicendomi, sghignazzando, ci scopiamo la fidanzata del capo. Mi è saltato addosso sfregando il suo corpo sul mio, percepivo il suo pene fra le mie gambe, piangevo e lottavo per levarmelo di dosso mentre mi gridavano che mi avrebbero violentata. La porta della cella era aperta e c'erano non so quanti altri guardia civili che gridavano, sghignazzando, che loro sarebbero stati prossimi. Io gridavo, stavo piangendo, ma a loro non importava. Quello che mi stava sopra mi palpava dappertutto e mi premeva sempre più forte fra le gambe, mentre mi gridava, cosa ti dice il tuo ragazzo mentre ti scopa? Gora ETA? Certo che ti stai arrappando puttana, ti scoperemo tutti e gli farai schifo perché ce la godremo un mondo con te. Quelli che stavano sulla porta reclamavano il loro turno e fra le risate mi dicevano «Ti scoperà persino la tipa che sta qui con noi». Hanno continuato così per parecchio, mi sentivo perduta, perché quello era solo l'inizio ed avevamo 5 giorni per comportarsi con me. Ero completamente terrorizzata, ero sola nelle loro mani. Quando se ne sono andati, avevo tutto il corpo indolenzito, mi sentivo spossata e piangevo. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie. Durante i giorni successivi Amaia racconta nella sua testimonianza come sia stata sottoposta alle già note tecniche di tortura che la Guardia Civile utilizza contro i prigionieri politici baschi, come il sacco di plastica intorno alla testa e le immersioni nella vasca. Ma le violenze sessuate e sessuali ovviamente proseguivano, tra insulti, insinuazioni e minacce costanti, per arrivare nuovamente poi alla violenza fisica. Mi hanno portata un'altra volta, bendata, alla sala degli interrogatori. Mi hanno messa al solito posto e uno di loro ha cominciato a parlarmi. Anche se all'inizio mi parlava con un tono tranquillo, diventava sempre più nervoso. Mi ha detto che mi avrebbero mostrate alcune fotografie e che avrei dovuto dire nome e cognome delle persone ritratte, gli indirizzi dei loro posti di lavoro e di dove abitavano. E siccome ci sarebbe voluto del tempo, mi hanno obbligata a sedermi su una sedia. Avevo le braccia legate allo schienale, mi hanno legato le caviglie alle gambe della sedia. Hanno continuato a mostrarmi fotografie su fotografie fino a quando si sono stancati e allora quello che faceva la parte del capo ha cominciato a gridarmi puttana, troia, se in questi giorni non hai imparato niente imparerai e cose del genere. Mi ha detto che non gli costava niente tirarmi due colpi e mi ha rimesso la benda. Mi ha chiesto se quello che avevo detto della gente nelle fotografie fosse vero e se avessi detto tutto ciò che sapevo. Ho risposto di sì, che non sapevo nient'altro su quelle persone. Ero completamente terrorizzata, piangevo. Mi ha gridata di non piangere, mi ha alzato un po' con la benda e mi ha mostrato una pistola. Era di metallo. Ho cercato di voltarmi, ero terrorizzata. Pensavo che mi avrebbero sparato. Ridendo mi hanno chiesto se volevo prenderla in mano. Volevano vedere se avevo le palle per sparare loro, come mio fratello e mio compagno. Io dicevo di no fra i singhiozzi, tremando, e loro ridendo mi dicevano cose come puttana traditrice. Allora ho sentito il metallo fra le gambe e un guardia civile mi ha sussurrato di non muovermi. Io piangevo e ho cominciato ad urlare come una pazza mentre facevo forza per chiudere le gambe, ma non potevo, perché avevo le caviglie legate alle gambe della sedia. Mi ha messo la pistola fra le gambe e con la mano ha scostato il tanga. Io gli gridavo di lasciarmi in pace, ma si è messo a colpirmi sulle orecchie con la mano aperta. Mentre mi gridava di stare ferma, o gli sarebbe partito un colpo, che la pistola era carica. Sentivo le risate degli altri che dicevano cose come «Troia, vacca, puttana, ti piacerà». Mi ha introdotto la canna della pistola nella vagina, gridandomi continuamente nell'orecchio «Cosa ti dice?», riferendosi al mio compagno, «Quando ti scopa? Gora eta?». Non riuscivo a smettere di piangere, non avevo più la forza di gridare. Si è messo ad introdurmi e a togliere la pistola con maggiore violenza e mi faceva male, mentre quello che mi stava violentando mi sussurrava «Ti piace, puttana? Non avrai un figlio di puttana perché ti tirerò due colpi». Il suo odore mi invadeva, mi faceva schifo, non so se quell'odore mi uscirà mai dalla mente. Tutti ridevano, uno mi teneva per il collo mentre l'altro continuava a mettermi e togliere dalla vagina la canna della pistola e mi palpava il petto in maniera molto brusca, strizzandomi il seno. Percepivo dentro di me il freddo del metallo, mi ripetevano che la pistola era carica e che se avesse sparato sarebbe stato solo colpa mia. Non so quanto tempo è durata la violenza. Dalle parole dolorose della testimonianza di Amaia si può apprendere come appunto la violenza sessuale venga appunto utilizzata nei confronti delle prigioniere politiche come uno strumento di tortura a sé stante. A questo scopo, infatti, spesso la violenza sessuale viene inscenata, come sempre da questa testimonianza apprendiamo come appunto sia avvenuto proprio negli ultimi giorni dell'isolamento di Amaia. All'improvviso hanno bussato molto violentemente e mi sono messa contro la parete, terrorizzata, perché i colpi erano stati molto violenti. Quando ho sentito aprirsi la porta, due uomini mi sono saltati addosso mentre ridendo mi dicevano che questa volta mi avrebbero violentata davvero. All'inizio ho usato tutte le mie forze per cercare di liberarmi di loro, ma era impossibile ed uno mi dava degli schiaffi per farmi smettere. La porta era aperta e ce n'era un altro che guardava all'esterno. Uno di quelli che erano entrati mi è costretto a restare sulla branda mentre mi afferrava per le braccia e si abbassava i pantaloni. Piangevo, disperata, ma poi sono rimasta assolutamente ferma perché non avevo più le forze per resistere. «Cosa credevi che te la saresti cavata così?» mi diceva quello con i pantaloni abbassati quando mi si è buttato sopra. Non mi sono mossa, lo guardavo negli occhi con odio e non riuscivo a smettere di piangere. Sfregava il suo corpo contro il mio e mi diceva delle porcherie, ma ad un tratto tutti si sono messi a ridere e se ne sono andati, lasciandomi in un angolo della branda, rannicchiati, dicendomi che facevo loro schifo. A quel punto ero disorientata, non ne potevo più. Volevo essere con la mia famiglia, uscire da lì, che l'incubo finisse. Amaia, dopo aver denunciato le torture e gli abusi subiti, ha fornito una minuziosa descrizione fisica dei suoi aguzzini, aguzzini che però non possono essere identificati e che comunque resteranno impuniti, perché come abbiamo avuto modo di approfondire anche nel corso di questa mattinata, lo Stato, qualunque nome esso abbia, in questi casi tende sempre ad autoassolversi. Thank you. Torturata numero 7, italiana. Ingiuriata e minacciata. Siete delle bocchinare, sporche, puttane e bastarde. Costretta a sostituirsi l'assorbente in cella con dei pezzi di vestiti, alla presenza di altre persone, anche di sesso maschile. Torturata numero 21, italiana. Minacciata di essere stuprata con il manganello. Torturata numero 30, italiana. Insultata in cella. Troie, dovete fare pompini a tutti. Vi facciamo il culo, vi portiamo fuori nel furgone e vi stupriamo. Torturata numero 42, straniera, minacciata col manganello contro la bocca ferita. Torturata numero 46, italiana, costretta a rimanere nell'infermeria nuda oltre il tempo necessario per l'espletamento della visita medica, anche alla presenza di uomini, costretta ad essere osservata nelle parti intime. Torturata numero 50, italiana, minacciata da un agente con la frase: questa è mia, questa me la porto via io, ci penso io. Torturata numero 53, italiana, percossa nel corridoio, ingiuriata, puttana, troia. Torturata numero 57, straniera, rimasta nuda nell'infermeria anche in presenza di personale non sanitario, per un tempo prolungato, costretta a girare più volte su se stessa. Torturata numero 60, italiana, costretta con violenza e minacce a chinare la testa all'interno della turca, insultata con puttana, troia, e a subire da altri agenti frasi ingiuriose con riferimenti sessuali, del tipo: che bel culo, ti piace il manganello. Costretta a fare il saluto romano, a dire: viva il duce, viva la polizia penitenziaria. Torturata numero 76, italiana, minacciata ed ingiuriata: non uscirete vive da qui, bastardi, comunisti di merda, entro stasera vi scoperemo tutte. Torturata numero 81, straniera, costretta a firmare i verbali relativi al suo arresto, che la stessa non voleva firmare, mostrandole le foto dei suoi figli, prospettandole che se non avesse firmato non avrebbe potuto rivederli. Catanzaro, 3 luglio 2012. Mario Placanica, assassino di Carlo Giuliani, viene rinviato a giudizio per violenza sessuale su minore e maltrattamenti. Vittima, la figlia dell'ex convivente, all'epoca dei fatti appena 11 anni. Gli abusi sono durati per un anno intero. I primi di settembre, in un quartiere di Tunisi, una giovane si era appartata in auto con il suo ragazzo dopo una cena. Un gruppo di poliziotti in borghese li ha visti e ha giudicato il loro atteggiamento indecente. Per rilasciarli, però, hanno preteso dei soldi. Il ragazzo aveva solo 40 dinari. Uno degli agenti, dopo averlo ammanettato, lo ha portato a cercare un bancomat per prelevare 300 dinari, 150 euro. Poiché la ragazza era la guida dell'auto, la conclusione dei poliziotti è stata che si trattasse di una donna sposata e dunque colpevole di comportamento immorale. Lei, 27 anni, ha giurato di essere vergine e che si sarebbe sottoposta a un test se necessario. I due agenti rimasti con lei l'hanno fatta sedere sul sedile posteriore della loro auto, l'hanno portata in un luogo isolato e violentata a turno. Poi hanno raggiunto il terzo poliziotto rimasto col ragazzo alla ricerca infruttuosa di un bancomat. Il ragazzo, che si è accorto dell'accaduto, è riuscito a strappare la bomboletta di gas immobilizzante a uno degli agenti e ha cominciato a gridare. I poliziotti hanno rilasciato i giovani in cambio della bomboletta. Solo alle 16 del giorno successivo la giovane è riuscita ad avere le cure necessarie e l'accertamento medico che quanto da lei dichiarato nei verbali corrispondeva al vero. Gli agenti stupratori sono stati arrestati, ma al momento del primo confronto la vittima si è trovata a doversi difendere dall'accusa di offesa al pudore. Durante la seconda udienza l'accusa è stata confermata. Dai Paesi Baschi a Bolzaneto, dalla Tunisia ai nostri territori. Queste sono le storie di violenze, di torture che abbiamo voluto raccontarvi in chiusura di questa mattinata.